Wall Street, i viaggi del lupo. Vai tu. Rieccoci a una nuova puntata di Wolf Trips. Niente, 6 aprile, 6 aprile, dobbiamo dirlo, no? Oggi è 6 aprile, siamo in ritardissimo, sono le 20.08, quindi... Vabbè, stasera è una serata un po' così, dai. Vero, stasera proprio con la stanchezza della settimana, proprio... Che poi tra l'altro pure è stata una settimana corta, perché lunedì era pure Pasquetta, giusto? Sì, ma è stata intensa. È stata cortamente breve ma intensa. Parecchio intensa. Vero, infatti io sono tornata a casa con un mal di testa. Vabbè, comunque siamo qui, io e il buon Domingo. Sì, perché Fabio ormai l'abbiamo perso. Non si hanno più neanche sue notizie. Ma neanche ormai... a chi l'ha visto, cioè, No, ci stanno provando ma non lo trovano più. Io direi che o facciamo qualcosa o gli facciamo una retata. Può essere. Perché sennò qua si perde tutto, eh. Vabbè, intanto aspettiamo. Intanto che aspettiamo Tony, che vi diceva che tra 10 minuti arriva. Ma sono passati 10 minuti, Tony, au. Sai com'è, la puntualità è il suo forte. Stasera ti dicevo che sinceramente non sapevo bene cosa proporre come giusto musica. Giusto, perché la settimana non è stata troppo intensa. No, in realtà non avevamo bene le idee chiare. In realtà è il menù del giorno, ecco, mettiamola così, dai. Pure. Sì, oggi c'è il menù del giorno. E stasera? È un po' variato il menù del giorno, oggi ci sono piatti variati. No, allora, seguiremo sempre il solito filone di ascoltare un genere musicale. Mm-hmm. Stasera ascolteremo il genere synthwave e vaporwave, poi dopo vedremo bene che cos'è. Microwave, vaporwave, mi viene voglia di cibo. Sì, beh. Già che non ho mangiato stasera. No, E poi dopo ascolteremo un po' di brani nuovi, presi da una classifica che si chiama, che mi ha suggerito Tony, quindi sarà molto contento, è Hit Parade, che non c'è. Quindi sono tutti brani che ho notato essere molto innovativi, nel senso che sono nuovi. Poi dopo man mano magari finiscono anche nelle radio locali, mettiamola così. Quindi sono in linea un po' con quello che suoniamo solitamente. Perfetto, dai. Allora iniziamo quindi ad ascoltare. Avremo delle new entry. Sì, ma più che new entry, un po' di genere musicale nuovo, una ventata di novità, ecco, mettiamola così. Una ventata d'aria fresca, visto che ormai visto che è primavera. Brava, infatti era proprio quello che stavo per dire. Bene, andiamo ad ascoltare il primo brano, che in realtà iniziamo con qualcosa di un po' più consono con Wolf Trips. Il brano è DJ Shadow con Nobody Speak. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you Santa and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Smoke with Snoopy. top billing it. Valiant without villain it. Viciously found victory. Burnt towns and villages. Burning, looting, and pillaging. Murderers try to hurt us. We curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free. I am barely giving a fuck away. So tell begging Johnny and mommy to get the fuck away. Yo, here's a gun, son. Now run. Get it the gut away. Live to shoot another day. Sono arrivati anche Tony e la Debora, fantastico. Ciao Tony, ciao Debora. Buonasera. Ciao. Com'è questo primo pezzo? Bello, né? Sì, era molto yo-yo, hip-hop. Però questo... era abbastanza orecchiabile la musica, mi piace. Sì, beh, ma molto tranquilla per inizio serata. Mi state combinando, mi state silenziando un'altra volta. No. È che sento, questa volta sento solo la tua voce. Wow. Si sente fin troppo, mettiamola così. Sempre no, carino. Vedi come mi vogliono bene, Deborah. Vedi, anche il microfono più alto di te. Oh, stasera. Ascolta, me la stavo sciallando un attimino. Ero comoda. Sì, stasera siamo un po' tutti smidollati, sì. No? Cioè, io credo che sia anche un po' il caldo che... Sì, a parte il caldo, ma poi la settimana è stata veramente pesante. Sì, abbiamo qui quello che fa la notte per Milano a suonare. vabbè, finché si può. Sì, sì. Ah, io sono andata a letto a dormire. Vabbè, te ti fai anche tanti chilometri per lavorare. Mamma dunque, mia. un po' anche questo. Va bene, stasera sono tornata dai. A casa, sono andata in bagno, mi sono sciacquata, sono cambiata, via! E siamo arrivati anche in ritardo, penso un po'. Anche voi! Sì, stasera abbiamo è così. Abbiamo iniziato così. Alle 8.07. Ah, dunque, neanche tanto... No, il primo pezzo che passavamo, il primo pezzo che passavamo. No, questa volta siete scusati perché anche noi eravamo in ritardo, però la prossima volta no, Tra l'altro la prossima volta abbiamo anche un ospite. Dovremmo avere un ospite. Dopo valuteremo bene anche il nostro stato psicofisico per avere un ospite. Diciamolo così. Veramente, perché cioè, se ci fosse stato un ospite stasera... Mamma mia, stasera è del delirio, se c'era. Facciamo fare solo il programma. Conduceva la Debora. Facciamo fare solo il programma all'ospite. No, secondo me dovevamo chiamare... Vabbè, la Debora, vabbè. E poi ci voleva Jonathan e Fabio la e conduzione. E Fabio non siamo riusciti a prenderlo stasera. Sera. No, non l'avete tirato perché su. Eravamo già in ritardo. Salutiamo la sua ragazza Sabrina. Certo, ciao, certo. Sabri. Ciao Sabri. E niente. Speriamo di vederci presto. Vabbè, vediamo di riprenderci un attimino. Va. Torniamo alla se realtà. Riusciamo, forse. Se riusciamo. Allora, il prossimo pezzo è un pezzo dei Prodigy. Si chiama Black Plus Enter. Black Plus Enter. Plus Enter. Plus Enter. Allora, sì, Enter. Plus Enter. Plus Enter. Vediamo un po' se ci ritira un po' su di morale, va. Dai. Siamo un po' scarichi. Vedremo. Ci vuole un bel caffè qua. Ci vorrebbe un caffè quello che posto. Manca. allora... mi martellano, perché non metto le cuffie, mi martellano. Se no, che l'hai presa a fare le cuffie? Vabbè, volevo far compagnia alla Debora. E fagli mettere alla Debora le cuffie. Per la par condicio. Poi, vuole. Sai, come siamo in piscina, cioè, ci vuole sì, le infatti. No, beh, mi sa che hai anticipato qualcosa che voglio mettere dopo, però. Sì. Giusto, giusto. Sì. Va bene, riparliamo dopo. Allora, sì. Rientriamo dopo in piscina, dai. Sì, oggi faceva veramente caldo, eh? Ci vuole un po' di acqua, un po' di piscina. Vero. Ormai siamo, sì. Siamo quasi nel periodo. Sembra che è cambiato. Comunque, ma tornerà il brutto tempo. Sì. Beh, non è che può far caldo adesso, tornerà da adesso anche... fino a settembre. Cioè. No, io muoio. Tornerà anche Natale. Tornerà. Vero, quanto manca Natale? E le domeniche quanti d'agosto, giorni? Sai quanta neve che farà. Giusto. Quanti giorni mancano a Natale? Non lo so. Dai, fatti i conti. Così ci teniamo un po' di fresco. Sì, veramente. Oggi è il 5, dunque. Comunque, devo oggi dire. È 6. Sì. Stasera è un caso disperato, cioè, nemmeno i prodigi ci hanno risollevato il morale, cioè proprio stasera. Ma qua altro che caffè, ci vuole una carazza, una carazza, sì, la carazza. Una caraffa, no, perché la famosa carazza, quella che si trova, boh, non lo so. Veramente. Vabbè, come parliamo, facciamo la prima parte seria, dai, almeno vediamo di durare un po'. La mia era seria. La carazza. Cioè veramente. È serissima la carazza. Io non ho parole, io non ho parole più con te, basta, cioè. Vabbè, stavo dicendo, ecco. Continuiamo il nostro giro musicale nei vari generi. E stasera ascolteremo il genere che ti dicevo, ti annunciavo prima, era synthwave, vaporwave. Che non so perché vaporwave. Te lo sposto in bocca. No, a me, sai cosa mi viene in mente? Tipo smoke. Vaporwave, cucine a vapore. Il wok ti viene in mente, lo so. Proprio microwave. Sì, è il microonde, no? E quindi mi onde viene comunque cibo mi viene in mente. Beh, in realtà oltre il sonno c'è anche fame. In realtà non ma si parla sonno molto. Ma non tanto, mal di testa e fame, sì. Molta. In realtà non si parla di cibo, ma comunque di generi musicali, però facciamo così, ascoltiamo il pezzo poi ma dopo. Ma si mangiano? No, cioè, mentre fanno i concerti si mangiano. Sì, sicuramente, magari danno, prima e lanciano dopo. I panini. Che sì. Figata, ti immagini? Ma una volta c'era comunque quello che dove? Passava a darti da mangiare. Sì, c'era... quello lì, sai, sì, quello lì che vende come le... si chiamava? Il bagarino, no? No, quello è il bagarozzo. Ah, pensavo che ti lanciavo il mangiare nei concerti, no? Quello magari. Com'è che si chiamava quel tizio lì che andava in giro con sto coso? Sai che non so se ha un nome preciso. Poi il magari bagarozzo. Cerchiamo. Si chiama tizio. Scrivi su, cerca su Google tizio bagarozzo. Che andava in giro col ma coso. Ma ancora in giro, penso se vai allo stadio così c'è ancora. Adesso lo cerchiamo. Intanto andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. Magari adesso ci siamo un po' evoluti. È vero. Vabbè, andiamo a ascoltarci. C'ha fretta. Sì, perché lo sì, no, ci addormentiamo, sì. No, invece io se parlo mi sveglio, quindi parla con la Debora. We'll be right back. Questo qua era il brano di Kavisky, Proto Vision, che era un po'... Sì, no, pezzi bellissimi che fa, tra l'altro. Aveva fatto Night Call, se non sbaglio, che era... Sì, una... ma mi sembra che da un po' che è fermo il ragazzo, cioè... Sì, sì, sì, sì. Ci vive di... cioè, vive di questo ancora. Vabbè, vuol dire che aveva fatto un bel successo. Sì, no. Si vive di questo. Il genere che ti dicevo, Synthwave, praticamente è una sorta di ripresa degli anni Ottanta, di quello che era la synth pop, mettiamola così. Depeche Mode. Sì, poi. Depeche Mode, sì. E rigenerata poi ai giorni nostri, quindi c'è tutto questo parco di suoni un po' più innovativi, un po' più alla Daft Punk, però il genere è comunque preso soprattutto dalla musica anni 80, non è nulla di più, nulla di meno. Cioè adesso è una nuova ondata di tutta questa musica, infatti New Wave, ancora New Wave 2018. Sì. Bravo, bravo, è vero, poi si potrebbe rinominare dai così. Giornalisti a Cosmo, che sono, diciamo, quelli di punta nel panorama italiano, che stanno andando anche grazie alla riscoperta nelle radio più grandi, perché comunque loro è già da un po' di anni che producono, sì, e adesso sono sotto gli occhi di tutti, cioè. Andiamo avanti ad ascoltare un po' di brani sempre di questo genere. Il prossimo è Miami Nights 1984, che è anche un brano di Kavisky, anche sembra 1984 è un, sì, brano di Kavisky, quindi anche. È un po' il, beh, io sono nato nel 1983, quindi vabbè, poteva mettere un anno prima, porca miseria, sì. Era stato un po' più divertente, però diciamo è il gruppo, in questo caso si chiama proprio Miami Nights 1984. No, adesso andiamo a vedere il perché, magari la data di nascita, magari c'è qualcosa con Miami Vice, che è più andiamo o meno a vedere, quello. Andiamo a vedere. siete entrati senza di me prima, eh? Vi sono mancata un po', dite la verità. Sei andata a fumare, di la verità. No, se... Sì, no, poi ero anche al telefono. Ah. Sei tu che sei cuore, uscita, che... noi eravamo sempre dentro. Tra l'altro, nel 1984 non c'erano i telefoni, Però c'era, cos'è che c'era? Miami Vice, forse? No, c'erano già i telefoni, come no? No, c'erano i telefoni, dai. Sì. Telefonini? Erano sì. delle cabine telefoniche, però... Ma proprio in questi anni, in questi giorni ha fatto... un compleanno il cellulare nel 73 mi sembra. Ma io lo dicevo per quello, era per metterti alla prova. Sì, lo sappiamo tutti. Era per ricollegarmi a questa cosa qua, no? Sì, beh, il telefono era praticamente un mattone. Sì, veramente, potevi solo chiamare ed era fantastico, manco i messaggi potevi fare. Ah, quindi no? Hai trovato l'omino, come adesso, si chiamava? Stavo Vai avanti a cercare. Sì. Invece parliamo ancora un po' di questo genere musicale, intanto che tu cerchi l'omino, tanto che ti arrivano delle... Adesso tra un po' ti lancio anche le cose. Sì, non lo so cosa Una Coca-Cola ne ha lanciata. Panini, cioè, ogni volta mi devono cazziare per qualcosa. No. Vabbè. Comunque stavano dicendo fuori onda che questo qua era proprio un brano, sembrava di giocare ai videogiochi vecchio stile, no? Sai, dove avevi citato Outrun. Oppure un gioco, un film, Troy. Sì, sì. Troni, sì. Tron. Non riuscivo mai a dirlo, sì. No. Che Troy è un'altra. È un'altra roba. No, è un film, è un film. Sì, lo so, anche, ma però, cambia di... Diciamo un'altra roba. Va bene, quindi anche un po' cosmic però secondo me di sound, come beh, musica. Sì, ha l'idea sta, delle... dello spazio. Infatti probabilmente per quello Vaporwave, forse per i suoni un po' spaziali, potrebbe essere per quel motivo lì. Andiamo magari avanti... gente che fumava sigarette elettroniche. Sigarette elettroniche. Vaporwave. L'ho capito adesso. Ma io non dai lo che so. piano stiamo ingranando. Stasera siamo proprio dei diesel, ma proprio di brutta. Ma a carbone siamo, neanche mamma diesel. Mamma mia, veramente stiamo facendo. Ragazzi, hai cos'è? Trovato? No, non ho trovato, però. Stai cercando Just Eat, lo so. No, stai ordinando da mangiare. Concerto di Laura Pausini, derby, compra i biglietti. Va bene. Derby Milan-Inter. Ma secondo ieri. Voi? Era ieri. Sì. Ma secondo voi? Lasciamo stare il calcio, lasciamo stare. No. Chiudo. Basta. Facciamo così allora, intanto che tu cerchi l'omino. Abbiamo preso la mazzata. Mi raccomando, vai avanti a cercare l'omino e fammi sapere come si chiama. Noi andiamo ad ascoltare il prossimo gruppo, sempre di e questo genere. Da mangiare. Prendo le bibite. Bibite e panini. Il prossimo brano è Lazer e Walk. Lazer Hawk. Potrebbe essere. Hawk. Che mi ricorda un po' anche questo, un film anni 80. Ah, Lady Hawk. Lady sì. Hawk, Lady Hawk. C'è come anche no? Un gruppo che potremmo mettere che è elettronico. I Lady Hawk, no, sì. Mi sfugge, il gruppo mi sfugge. Sì, sì. E il brano si chiama Overdrive, anche questo. Sì. Già dal suono sotto si sente. Ehi. Andiamo ad ascoltarlo. E quindi mi dicevi che avevi trovato il nome, qua, l'arcano. Sì. Uomo bancherella, bibitaro. Il bibitaro. Vabbè, intanto continuiamo la nostra carrellata negli anni Ottanta, dai. Possiamo dirlo, no, Tony? Intanto ti vedo preso dal... Sì, sì, ma perché... Hai approfondito un po' la questione. No, perché poi... Del bibitaro, anche tu. No, che sì, io sono più profondo. No, no, lui ha approfondito la questione musicale, mettiamola così. Ok, allora niente. Sono meno veniale. Vabbè, il bibitaro, dai. Bibitaro, tra l'altro, c'era anche sui treni. Quello che ancora c'è. No, ci sono ancora. Quando vai al sud, passa uno. Ma perché vai al sud? Perché al nord non c'è più. No, devo dire la verità, no, è vero. Dove quando che non... Al nord non l'ho più visto. Sui treni del nord non ci sono più. L'ho sempre visti quando passi, diciamo. Noi quando andavamo in Spagna li trovavamo in Spagna, quindi. Sì, però sì, se vai verso nord Italia, vabbè, non perché sul più. TGV c'è, sì, magari c'è anche servizio a tratta lunga. Sì, beh, certo. Quelli a tratta lunga passano col carrellino. No, ecco, è quello che vi sto dicendo. Io non sto parlando di quelli ufficiali, io sto parlando di quelli che passano col catino blu che c'ha dentro le birre nel ghiaccio. E quelli stavo dicendo. C'era un famoso film di, adesso non mi sul ricordo, treno? Sì, sul sì. treno, sì. Ma e ci sono ancora. Preso? Ci sono ancora. Ma io non c'ero quando hai preso il treno tu. Allora, l'ho visto l'ultima volta, l'ho visto effettivamente quando sono andato in Calabria. No, dalle parti del Molise, quando sono andato a Foligno, che non è in Molise, però vabbè. Poi ho fatto il giro, però, capito, per fare il giro ho fatto anche sul dal Molise, c'era è passato il tizio con che vuoi, panini fatti in casa, no? Sì. Ovviamente appena c'è visto qualcuno. C'è un film di Norman Freddy che lui faceva, certo. Tu l'hai visto, certo, adesso non certo. mi ricordo il nome del certo. film, che lui vendeva il caffè caldo. Caffè caldo di anche, notte. Quelli che passano in spiaggia, cocco! Ma adesso cocco sono evoluti, ormai ti fanno i cocktail, sì, hanno sì. tutto attrezzato. Sì? No, sì. I cocktail non li ho mai visti. Sì, però Ibiza, il cocco ma... passava, poi passano quelle volere massaggi. Stai facendo il listino. Dice anche i venditori ambulanti. Vabbè, dai, siamo passati oltre. Chiudiamo anche, vabbè, ma ci sta. Sì, ci stiamo un po' riprendendo, ho detto, siamo un po' carbone, neanche diesel, stasera siamo carbone. Stiamo iniziando a ingranare un po'. E chiudiamo un po' la... nero. Parlo di spiagge. Cos'è chiudiamo che la... vabbè, sto la dicendo... canzone degli anni 60. Il gatto nero? Sì, vabbè. No, sei diventato nero. Nero come carbone. Chiudiamo la parentesi del genere musicale di stasera con un brano che... Ma effettivamente... non era il femminile, scusami. Maria, io esco. Questo era meglio quando dormiva, Vabbè, se vuoi torno a dormire. No. Ci mancherebbe. Però... Va bene, dica capo. No, vai pure avanti. Posso andare? Sì. Vai, e niente, poi ci sono anche quelli che ti vendono gli occhiali da sole. Braccialetti. Sai che una volta io ne ho avuto bisogno. Subito.it. No, io ne ho avuto bisogno perché una che va al mare, cosa fa? Si dimentica a casa gli occhiali da sole, giusto? E io ho dimenticato i costumi a casa, pensa te. Grande. Io un giorno sono andata via e ho lasciato a casa tutte le mutande mie e sue. Sì, beh, particolari figurati no, te. Grazie. Magari siete andati in una spiaggia di nudisti e allora no. passato tutto. Era inverno, vai tranquillo. Aia. Vabbè, possiamo chiudere? Dimmi sì. tu quando vuoi. Vabbè, oh, ragazzi, scusate, cioè. Ciao. Va bene. Stavo dicendo, chiudiamo un po' la parentesi del genere musicale con un brano che effettivamente proprio racchiude il tutto, no? Perché si chiama Retro Futures. Quindi praticamente è proprio l'idea di questo genere, cioè guardare un po' al passato con i suoni del futuro. Sembriamo io e te questo qua, Star Fox e Perturbator. Chi è il Perturbatore? Tony. Allora io sono Star Fox. Guarda. Vabbè, andiamo le a perturbazioni che esco. Ah, in quel senso io penso. Vabbè, andiamo a ascoltare questo brano, Retro Futures. We'll be right back. fai cenno di partire. Prima mi avete detto di stare zitta. No, no, ti ho detto di parlare. No, no, no, no, non ti ho detto proprio di stare zitta. Stasera no, parla quanto vuoi. E lo smilzo di fianco a te? Lo smilzo di fianco a me sta sistemando i volumi. Perché urli come non so cosa, quindi... Ma basta questa storia. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Basta, è il mio tono di voce, io non ci posso fare niente. Adesso sto parlando pianissimo per infatti, me. Infatti, adesso va bene. Così che devi parlare. Adesso sì, va bene. Vabbè. È il tuo tonno di voce. Mi ricorda un soprannome di un mio amico che domani sera incontrerò. Cioè? E mi chiama Tonny. Ah, Tonny. Beh, noi abbiamo il tonnaro. Ah, sì, è vero, il nostro amico che vende il tonno. Basta. Ma quindi domani torni? È stato pescato. Domani torni? Domani torni dal tuo amico. Domani sera torno dal mio amico. Vabbè, ok, sì. Siamo a lunedì sera. Questo praticamente è il disagio. No, allora, io al mattino ho dei disagi mentali. Cioè, sono disagiata veramente. Okay. Quando mi sveglio al mattino, veramente, cioè, io non so come faccia la mia mente a pensare allora, a certe cose. Proponiamo il quiz che mi ha detto l'altra mattina a questa ragazza qua, che gli voglio un bene dell'anima, però. Allora, no, l'altra mattina stavo pensando un po' alla creazione, no? Di mattina. Cioè, è un po' pesante la cosa. Per quello, quando sonno, i pensieri si sono più appesantiti, no? E mi è sorto un dubbio. Io mi sveglio alle 6, sì. Ma a che ora si svegliavano i nostri primitivi? Cioè, per la caccia, per tutte quando le cose. Quando avevo fame. Ma quando? Cioè, non erano so. In base... Beh, guardavano le stelle, guardavano il sole. Sicuramente la sveglia non ce l'avevano. No, guardavano le stelle. Che non gli rompevano il le... cielo, cioè, il cielo la era... sveglia non suonava e quindi i coglioni non erano rotti, sicuramente. Ma il cielo è quello che si ispirava a tutto. Ho capito, ma a che ora? Ma non c'era un orario, credo. Cioè, loro dovevano procurarsi il pranzo e la cena, giusto? Quante volte mangiavano? Che ne so io. Chiedilo a quello che vende le bibite, non so. Magari... Quindi questi sono i miei pensieri del mattino. Sì, io penso di più cosa fare a colazione, ma non questa cosa qua. Cioè, già è traumatico alzarsi. Vero, che poi vero. Sentivo in questi giorni un sondaggio su quella... Forse la canzone che si ascolta di più come sveglia. Te cosa usi come sveglia? La radio? Agnes Ridismi. Che? Non lo so, parliamo di uomini primitivi. Che tega. Scusami, si parla di uomini primitivi, di queste domande. No, qui si parla di gente colta. Sì. Appunto, io mi voglio acculturare specialmente al Fisto. Mattino. E quindi mi sorgono questi dubbi, no? Quindi è la sera che dubbi ti è? No, la sera sono talmente cotta che... Senti. Ecco, questa qua invece è la sigla per... Nel tuo cervello si genera questa sigla qua. Ecco, tu ti svegli... magari si svegliamo così come i Filisto. No, sì, infatti, allora io infatti. Nel mio telefono non so quante sveglie ci sono. Tra l'altro non è bellissima sta sigla, devo dirti la verità. Non è proprio il quante massimo. Quante sveglie suonano al mattino? Ne suonano tipo 12. Alcune anche a distanza di un minuto. Che non ho capito cosa serve, però vabbè. Perché mi sveglio. Sì, ma lei che lo si alza, Deborah? Tu che parli tanto. Lei fa fatica con mezza sveglia. Sì, ma ne ho solamente due. Sì, alle 8.45. Ah. Cioè, lei è già... No, io sono già a lavoro. 8.45 io ho già preso il primo caffè a lavoro, probabilmente. Oh, io non lavoro di mattina. Vabbè, se non lavori di mattina ci sta. Va meglio, fai bene, non farlo. Allora, adesso, guarda, se ti vuoi girare un secondo, dovremmo fare praticamente una cosa un po' più seria. Ah, è arrivato il momento della mezza tonica, vai. No, no, ma l'ha già annunciata da brava, dai. Dai, è già sincera. Basta. Niente. Vabbè, niente, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, quindi che... Mi chiudo a vita privata. Ecco, bravo. E il prossimo brano che è un brano scelto da Tonny. Tonny, da sera sei Tonny. Vabbè, questo è un pezzo del 2005. Allora, oggi è la giornata per lo sport, no? Dello sviluppo dello sport, più o meno, una cosa del genere. Poi abbiamo tutti la cuffia, quindi... Ecco. E allora ho cercato due titoli che comunque vadano bene. Anche lei, senza parlare, mi mette a disagio. Sì, è una cosa proprio vergognosa. Cara Cristina... Ma veramente, io mi stavo facendo i cazzi miei. Giusto, ecco. Cioè, cosa stavo leggendo le notizie? Parla. Vabbè, allora ho scelto un pezzo del 2005, io un DJ, mi sembra francese lui, Julien Jabre. Beh, Julien Jabre, però non lo so, è francese. E questo è un remix della sua famosissima canzone Swimming Place, pezzo house del 2005, okay, su etichetta Defted. Originale? Sì, okay. Però questo è anche un remix originale dei Gaben, che è un gruppo italiano, se tu conosci, sì, bene, sì. Gli Swing. Sì. Ha fatto un bel pezzo, sì, beh, bello commerciale. Do up. E questo è un remix di questa canzone, versione Sabaudia. Ok, quindi andiamo ad ascoltare Swimming Place con versione Sabaudia di Gaber Remix. Sì. Thank you.

oggi abbiamo fatto la giornata delle pause lunghe. Poi tra l'altro ci sono discussioni che guarda, manco i cani qua non se ne viene fuori. Ciao Darwin è un programma intelligente, confronto. No, ma la discussione era seria. Vabbè, purtroppo... ma tu non hai fatto parte alla discussione. No, lui era preso dalla musica stasera. Sì, sì, io... Infatti abbiamo ascoltato... Io faccio selezione musicale. Quindi come fai naturale. A sapere se è ignorantone o intelligente il nostro discorso? Ma lui è ignorantoni. Giusto. Scusami. Oppure, attenzione, potrebbe essere anche intelligentoni. No, voi siete ignorantoni perché ignorate me. Nessuno ti ha ignorato, guarda. No, bene. Hai fatto l'auto... Se tu temi silenzio ogni volta. Hai fatto l'auto-ignoramento. Vabbè, lasciamo stare. Ti sei rinchiuso lì in quel divano di un metro per un metro, neanche. Io sono più piccolo ancora. Tra l'altro è molto pulito il divano. Bisogna dire a qualcuno della direzione della radio, amici a Wawawa, per citare una pubblicità di prima, forse sarebbe meglio dargli una pulita. E beh che siamo brutti, sporchi e cattivi, però. Sì, no, ma anche i colori dei cuscini hanno preso un altro. Un'altra forma di vita. Un'altra forma di vita, credo. Giusto per citare le cose che stavano dicendo prima. Infatti. Vabbè, è vero, potrebbe metterla come canzone, perché anche come genere non è male. Ma quale dici? Quello di Blue Vertigo, altre forme di vita. Ah, sì, è vero. Adesso vediamo se la troviamo. Sì, sì, sì, ci sta. No. La lampadina. Tra l'altro stavamo ascoltando... La candela, direi, genio. Per me. Genio. Io la candelina. Che lo chiamiamo genio. A me? Un A amico. Lui. Io ho un amico... Noi chiamiamo io ho questo un amico qua genio. Ah sì, è un po' porno. C'è il silenzio. Genio, scusami, genio non ha fatto la canzone un po' porno. Ah, tu dicevi la canzone. Io pensavo qualcuno che è il soprannome di un vostro amico. No, no, è un soprannome di un nostro amico. È vero, è così, è così. Ok. Vabbè, intanto abbiamo inaugurato, diciamo, questa nuova ora di delirio. Delirio e paura a Samarate, potremmo soprannominarla. Potrebbe essere il nome del nuovo prossimo programma. Ma basta ascoltare la radio. Abbiamo ascoltato prima il brano di Tracy Storm. Tracy Storm. È molto una bellissima voce a discapito un po' della, diciamo, non è proprio una sonoro, bellissima donna, ecco. Vabbè, quello sì. E andiamo avanti ad ascoltare un po' di brani. Adesso ti dicevo, abbiamo estrapolato un po' di brani dalla classifica Paperino. Che mi dice la lunga giornata di lavoro di Paperino. 1945 Disney, non lo so perché è uscito fuori. Cioè, però vabbè. Salutiamo il Nello come al solito. Senza giacca perché stasera no, fa caldo. E andiamo ad ascoltare il prossimo brano, Nello. Intanto che salutiamo il Nello, di Samuel e Mannarino. Samuel è cantante di Subsonica. E Mannarino invece è il pelato è più bello vendolo. D'Italia, credo, no? Ma non è pelato. Insomma. Vediamo che è pelato. Vabbè. Sì. Latino, E il brano si chiama Ultrafarum. Finalmente ascolteremo un po' di musica un po' sull'italiano. Vediamo un po' come esce questo esperimento. Oro nero, oro di carne viva, nascosto dentro la stiva. Senti l'oro come cospira. Che l'oro era come l'oro prima della deriva. Poi uno sguardo solo, mille colpi di mitra. Stai tranquilla, ti ritroverò in questa, in un'altra vita. Je passais sous les nuages, je suis perdu, la nuit sans ton amour. Je passais sous les nuages, je suis perdu, la nuit sans ton amour. Uguaglianze, i linguaggi possibili tra le differenze, il modo in cui il mondo risuona d'immenso, l'universo è diverso ma ha un senso. Je passe sous les nuages, je suis perdu, la nuit sans ton amour. Je passe sous les nuages, je suis perdu, la nuit sans ton amour. Si perde per le vene aperte del mondo. Oro pagato piombo, oro pagato vista. Scritta d'oro sulla statale imperialista. Prima del muro c'è un'ultima uscita. Sarei l'oro colato dalla ferita più bella della mia vita. Silabo, guai walabo, demai job, gorgio gol, defsi hol, bansawa, kaboom. mille milliards. Je passe sous les nuages, je suis perdu, la nuit sans ton amour. Je danse sous les nuages, je suis perdu, la nuit sans ton amour. Oro di mino, oro di letrino, mira l'oro come cammino. Por las calles perdidas, mire el oro como se olvida. Le distanze, que el oro nacido oro. I linguaggi possibili tra le differenze. Antes de la herida, el modo en que el mundo risuona d'immenso. Cara de oro desconocida. L'universo è diverso, ha un senso. Tesoro de la mia vita. Stavamo parlando... Mamma mia! Stavamo parlando di etichette di MC, mi veniva da screcciare con il Switch. The Switch, sì, lo TB di studio. Vabbè, niente, in realtà ho detto che ascoltavamo qualcosa di in lingua italiana, ma mi sbagliavo, per dire la verità. E comunque... Non è pelato. Non ho, no. Non ho risolto tutti i miei dubbi, perché poi me ne stanno sorgendo altri. Sembra il mattino alle 6. Ecco, vedi, te sei primitiva perché... Vabbè, cos'è che dubbi stanno sorgendo? Sei primordiale, perché tu hai questi pensieri antichi. Dai, ti lancio la sigla, che dubbi ancestrali ti stanno sorgendo? No. Andiamo da Badu! Vai. Vai. Prego. No. Sì, ok, andiamo in depressione, mi sa. Ritorniamo in depressione. No, se no dopo... Perché comunque oltre noi ci sono pure delle altre forme di vita che noi non vediamo, ma ci sono. Come dice una canzone dei Ruvidi, tra l'altro, qualcuno ci salverà. Dove ci sono altre forme di vita. Era una piccola marchetta, mettiamola così. Sì, infatti. Ti su etichetta di, su che etichetta? Sull'etichetta, cos'è quella che si attacca? Ecco. Quella lì è l'etichetta. Etichetta lavabile, tra l'altro. Ah. Fatta con la Dimo? Sì, con la Dimo, bravissimo. Vabbè, facciamo così, visto che stasera siamo già nell'ora... Diciamo che, allora, facciamo così, abbiamo iniziato alle 8.08, alle 8.10 già iniziavamo a dire fregnacce e stiamo continuando su questo andazzo, quindi diciamo la situazione può sempre peggiorare. Questa è l'evoluzione serale. Partiamo... Tra l'altro, il programma che facevo anni fa, Radio Lupo, si chiama proprio Evolution. Sarà... Ma vedi che è tutta una cosa che circola, gira. Evolution. E che di cosa parlava? Parlavamo di evoluzione musicale. Ah. Sono un po', monotematico, effettivamente. Lei? No, lei no. Era, no? Pensavo che per quello che era chiuso. No, sì, fare il programma, no. Sono venuta qua a trovarvi. Sì, a trovarci, sì. Che bei tempi, E poi quando ho mollato il programma, per cambiare il nome del programma, l'hanno chiamato Revolution. Capito? Deborah, da stasera usciamo io e te, se vuoi. E te e io. Se no io me ne sto a casa, perché io non voglio più avere niente a che fare con Tony. Vabbè, dai, andiamo ad ascoltare Calypso Rose con Calypso Blues. Ci diamo al latino. Sì. Come dico in inglese. Non so cosa sia. Sitting back. questa canzone mi sembra di essere un po' al Cannabis Store di Gallarate, giusto per fare un po' di... No, a me sembrava, sai, le hawaiani così... Beh, Calypso Rosa, sì, dai, sì, ci può stare, sì, sì, sì. Siamo andati in hawaiana. Comunque, giusto per cambiare argomento di quello che stavamo parlando prima, vi devo dire un'importante notizia, cioè proprio una cosa importantissima. WhatsApp si aggiorna. A che cosa? Si aggiorna la nuova versione e ci sono delle nuove importantissime news. Anche che... qui, perché? Messaggi, messaggi con l'aldilà, allora. No, no, no, no, no, no, no. Ah. Praticamente ti semplificano la vita, cioè, capito? Cioè? Sai che prima per mandare un messaggio vocale devi tenere schiacciato. E invece? Adesso hanno introdotto una bellissima funzione che non devi più tenere schiacciato. Cioè, per registra quello che dici. No, cioè, tu fai partire la registrazione, non tieni schiacciato. Se io sbaglio... Così non posso. No, c'è la cancellazione. È come se fai una registrazione normale. Non devi più tenere schiacciato per fare la registrazione. E queste sono le grandi cose importanti che comunque semplificano la nostra vita di tutti i giorni. E sono importanti saperle. Perché, sai. Vabbè, comunque ricordiamo. Io ho sempre odiato questo. Ricordiamo i nostri radioascoltatori. O che cosa? Radio, che sono in video, che ci stanno seguendo dal video, che è il nostro numero dove potete mandarmi. Ma non mandateli, ma non sa neanche mandare. WhatsApp, anche i vocali. 338. Ma chi li guarda? No, scherzo. Vabbè, oggi c'è un po' il delirio. Tra l'altro è anche spento WhatsApp. Aspetta che lo... Dai. 338-222. Adesso si mette a schiacciare sullo schermo che non è touch. Vediamo se funziona. No, è partito un sacco di roba, ma... No, non funziona ancora. Okay. Siamo ancora disconnessi dal mondo. Vabbè, oggi è così. Comunque stai dicendo... E cos'è che... Cioè, perché è nato WhatsApp? WhatsApp è anche lui... No, segue una teoria evolutiva. Che potrebbe essere definita anche darwiniana. Tutto dentro Darwin. No, è vero. Potremmo fare una puntata solo su quello. Non era bella, però vabbè, ci buttiamo dentro. A me bastava anche stare davanti a madre natura. Poi dietro Darwin ci poteva stare tutto il mondo. Sempre il solito, sì. Intanto continuiamo adesso con un po' di musica allegra. Ecco. Padre Natura. Sai che c'era, sì, quando c'era le donne c'era anche Padre Natura. Va a finire che parleremo di Isola di Famosi. Tra l'altro ho guardato anche perché mi ha sponsorizzato. Aspetta. La notizia al cellulare dell'Isola dei Famosi. 3, 2, 1, attenzione che verrà silenziato un microfono. No, scherzo. Verrai isolata. Io me ne vado a fumare, ciao. Va bene, allora Tony, ti consiglio di guardare il video della prossima canzone che andiamo ad ascoltare, perché è molto particolare. Gogo Penguin con Windows. Allora devo accendere il computer. No, Windows, non Windows. Windows. Poi su finestra. Thank you. Mi ha ascoltato un po' di jazz in questa puntata. Sì. Alla fine è jazz, questo, non è sì, nulla sì, di più. Modern jazz, potrei dire. Cos'è che avevi trovato su di loro? Sono inglesi, dicevi? Sono di Manchester. Di Manchester, no, o di Manchester? Si dice Manchester. Manchester. Manchester. Giusto. Vabbè, vabbè. E al video a me piace molto, devo dirti la verità. Ma ho visto anche altri loro video. Sono sempre. Sembrano dei, diciamo, corti di animazione, ecco, mettiamolo così. Beh, poi già hanno sulla Blue Note Record, dunque. Un'etichetta molto. Sì, non è proprio piccolina. Ma anche non penso che sponsorizzano i primi che capitano. No, infatti. A parte le loro facce che mi hai fatto vedere, non è che erano è proprio. Un po' nerd. Però diciamo che la musica ci sta, dai. Sì, sì. E magari poi. Magari in futuro ascolteremo altro, perché ho visto che comunque non sono proprio puristi, cioè mischiano un po' di cose. Bene, meglio, comunque, meglio, mi piace di più allora sì, la cosa, sì, molto, sì, molto meglio. Molto bisognerebbe meglio. Ascoltare gli album, magari estrarre poi qualche canzone. Qualche altro brano, sì. Andiamo ad ascoltare adesso il prossimo brano, visto che siamo qua da soli, andiamo ad ascoltare un po' di musica. E il prossimo si chiama Jody Watley con Waiting in Vain. Adesso andiamo ad informarci chi è. Vuol dire aspettare in vano. Aspettare in vano. Mi viene in mente tanto un pezzo dei Clash con questo titolo. Che ah, sì, sì. Che però, vabbè, non c'è azzecca niente in realtà, neanche come genere, te lo posso assicurare. Andiamo ad ascoltarlo. From the very first time I rest my eyes on you, heart says follow through, but I know now that I'm way down on your line, boy, but the waiting feel is fine, so don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know now I have to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm done. I wanna know now if you're gonna come soon, 'cause I don't wanna wait in vain for your love. It's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh boy, is it feasible? I wanna know now if I can knock some more. You see, in life there's a lot of grief, but your love is my relief. The tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. trovato qualche informazione su questa cantante. È una famosissima cantante R&B americana. Sì, una canzone però concilia. Ma lei, anzi, faceva anche canzoni molto più house anni 80. Ah, ok, ok. Sì, è molto famosa in America. Okay, però okay. Questo è del, non so se è l'ultimo album. Sì, sì, è roba nuova comunque. Si è buttata nel roba, no, roba nuova, roba nuova. Molto somigliante a Donna Summer. Come, cosa c'è? Niente, stava facendo una papera che era da riprendere. Che la sedia alle rotelle. Da prendere e da mandare a paperissima direttamente. Ah, la sedia a rotelle. Vabbè. Me la spingi tu la carrozzella. Che è caccozzalone. Andiamo a ascoltare il prossimo brano invece estratto dalle scelte di Tony, ecco, mettiamola così. Hai visto come mi silenziano? No, no, è su, eh. No, no, silenzio, silenzio. Quando c'è la tua cosa, silenzio. La mia cosa. Quando c'hai le tue cose, silenzio. Ma sai che tante volte si dice che il silenzio dice più di molte parole, no? Infatti, io adesso comincio a cellulare. Va bene, dai, mettiamo il altro pezzo che avevo già fatto sentire a te, Domenico, in esclusiva. No, esclusiva no. Sì, l'abbiamo ascoltato al bar. Al bar. Dunque, già vedi che scelta che ho così accurata delle cose. È una canzone che non è stata pubblicata perché alla fine è un, non so se può chiamare bootleg, è solo su SoundCloud questa versione. Ma sai che mi devo assolutamente devo capire assolutamente la differenza tra bootleg, mashup mashup sicuramente mashup, sì. Mashup ok, però il bootleg non mi è ancora molto chiara, se è una cosa... Beh, teoricamente è un remix. Cioè, teoricamente è una cover, puoi chiamarla cover? Ecco, come in questo caso potrebbe essere una cover, perché comunque diciamo la parte vocale è la stessa, però cambia solo un po' No, perché mi ha confuso un po' le idee quel ragazzo che è venuto tempo fa, Andrea Power DJ, sì. Che lui aveva portato dei bootleg, ma in realtà secondo me erano dei remix e lui sosteneva essere fatti da lui bootleg. Fatti da lui, sì, anche molto carini, però insomma ci siamo un po' persi con la definizione, devo approfondire un po' la cosa. Poi bisognerebbe proprio conoscere proprio il simbolo, proprio cosa vuol dire bootleg in inglese, allora che sinceramente non lo so. Adesso andremo a boot vedere. Vuol dire... È tipo, reboot per dire. Butto giusto, no, è culo. No, nel senso, reboot vuol dire tipo quando fanno un film. Avvio. No. Di contrabbando. Come siamo? Siamo proprio degli ignoranti. Okay. Io sono ignorantoni, tu non lo so come ti chiami. Io non lo so, ignorant domi. Ecco. Era meglio non sapere che questa roba qua. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi questo brano che non è di contrabbando, perché mi sembra che fosse ufficiale. No, è un download gratuito su SoundCloud della pagina proprio di questo Talamanca, che è un artista olandese se non sbaglio. Okay. E comunque si diletta nella progressive house. Quindi il brano è Nile Kane. No, allora la canzone è Nile Kane, che è un grande classico anche della musica trance. Beach Ball. Nel 97, rifatta in 10.000 modi, tutte le salse. No, non dire salse, con musica non mi piace associare le due cose. E il brano è dei Talamanca Remix. Ok. Thank you. Siamo andati un po' in discoteca oggi, no? No, al tramonto, dai, discoteca al tramonto. Anche all'alba, dai, va benissimo. All'alba. Che c'è di Cristina? No, no, state parlando delle vostre cose. No, beh, per no, perché abbiamo finito, abbiamo finito. Ah, è finito, no. Ok, sì. Perfetto. Ok, niente. Quindi adesso puoi tornare a fare a dire stronzate. Le tue elucubrazioni mentali. No, eh? Ma veramente, io sai che questo problema, non so, per me è abbastanza serio, perché mi sento abbastanza disagiata al mattino. Ma io ti svelo un segreto, basta non pensare al mattino. Sì, partire via. No, partire via, subito. Perché veramente se no... Ma io mentre sono in bagno a lavarmi, mentre mi sto lavando in bagno, io penso tutte queste cose. Ma scusa, tu lavati e basta. No? Ma accendo la radio, accendi la radio, accendi qualcosa, non so. Ma secondo te già non parlo al mattino? Ma scusa, durante il viaggio in macchina non ascolti poco. Niente? Sì, beh, c'è la radio, mio appunto. Fratello mette la radio. Magari la mattina ti metti una radio sveglia, ecco. Che ne so, ti qualcosa di per sottofondo. Me deve essere almeno un'ora di silenzio. Ma se quest'ora di silenzio ti riempie la testa di ste robe, ah ciao. L'altra mattina eravamo svegli tutti e due, che lui è andato un attimo dopo, stavamo facendo colazione in silenzio. Cioè, a te ti conviene partire sempre prima che si sveglia lei. No, perché tanto tutte le sveglie che mette mi sveglio per forza, cioè, è impossibile dormire altri 5 minuti. Ma in mi più. Sembra che è una cosa abbastanza normale anche a casa mia, vabbè, però. Sì, anche lei sì. Si sveglia con poi capitano le giornate che invece sto a casa tipo da lavoro e suona lo stesso la sua sveglia perché si dimentica di tirarla via. Non ti dico lì il disagio, proprio il disagio. capisco Beh, dai, è sabato e la domenica, però non c'è la sveglia. Qualcuno ti fa segni strani, cos'hai combinato? No. Cosa l'hai combinata? Che dice che capisce, ma non capisce nulla. Adesso l'hai scoperto. Sei un ignorantoni. Capisco che non capisco nulla, vedi? Ma ascoltate, ma le vostre dinamiche in casa, cioè nel senso, non... che dia? Quando lui si sveglia... Io mi giro dall'altra parte. Brava, grazie. Però anche lei mi mette la sveglia, cioè abbiamo due sveglie solo per me. La mia e la sua. Tutte per te. Sì. Però io un mezzo secondo sono già... Per questo mi alzo abbastanza in fretta, cioè... Sì? Sì, lo sai come uno sferato. Ti si alzi così, Non uguale. Ti è mai capitato di stare a letto a dormire? Sì, certo. E penso che sia una cosa che succede... Ma è normale alla domenica, così... No, durante la settimana. No, sinceramente, difficilmente sono rimasto a letto... Cioè, non sono andato al lavoro... Per ritardare a dormire, no. Per ritardare a dormire. Sì, mi sono un po' in... incrippato il discorso. Praticamente tu sei in ritardo per dormire quasi giusto. Mai, ecco. Sì. Sono... Beato te. Io è la sera che crollo. Soprattutto a scuola. Sì, a scuola? Ma che ora andavi a letto? No, andavo a letto presto. Normale, sì. Non è che avevo grandi pretese di uscita io. E adesso com'è invece? Adesso quando sono tanto stanca non riesco a dormire, quindi questo è vero come anche quando uno mezzanotte, anche tanta fame magari dopo mangia appena qualcosa e gli si chiude lo stomaco. No, invece sei al mattino. No, dai, siamo davanti ai microfoni, tra una scorreggia e un no molto tanto, usciamo da questo momento empatico. E ascoltiamo il prossimo brano intanto, poi dopo continuiamo. Sì, che già il nome dice tutto. Poi se la mia continua a parlare. E il pezzo è di Jonathan. Ah, con la N però. No, c'è anche A-N. C'è. No, vero, c'è anche l'N. I never mint... c'è sempre di più che l'altro. I never meant to be there. Io no. I never meant to be there at any time. I never meant to call you, 'cause you drew the line. And I never meant to cross that street you live, 'cause I never meant to be there. Show you live. Show you live. Apart since you fell pieces. there at any time. I never meant to call you, 'cause you drew the line. And I never knew it's heartless to see me there. And I never had to be there, 'cause you're anywhere. Mi ha fatto un momento riflessivo a Wolf Trips. Sì. Sai quanti ne abbiamo fatti stasera? Di questa settimana è andato in vacanza Wolf Trips. Beh, è andato in trips. Sì, è andato, ma di brutto. Se l'è fatto proprio un trips, diciamo. È andato a male il trips. Diciamo che ha fatto la scelta su Trivago sbagliata, mettiamola così, va. Cioè, hai trovato neanche quello più caro, quello fuori catalogo. Ha fatto Secret Escapes proprio. Sì, no, è sotto la sottoscala di un albergo. Infatti. Sai, quando è il periodo che devono riempire qualsiasi cosa, ti affittano. C'era scritto praticamente fantastico viaggio nella casa di Harry Potter, però effettivamente era la prima, no? Quella dove c'era il sottoscala di, sai, quando nel primo che lui abita nelle lì. Okay. Nel sottoscala del primo Harry Potter, mettiamola così. Intanto è arrivato qualcuno, ma non so chi sia, non lo riconosco. No. Ho delle strane presenze oscure. Dopo andiamo a scoprire chi è. Tu dai. Lo vedi, no? Sì. Ah no, che sai. Vabbè, che sono cieca. No, è perché sai, prima stavamo parlando di esoterismo, di cose strane. Fuori onda. Poi qua magari sarà Radio Lupo. Fuori onda. È inutile restare qua da soli. Immagino dormire qua una sera. No. Cioè, scusate ragazzi, ma lo dirò fuori onda perché non è possibile. Va bene. Allora, continuiamo con un po' di musica, visto che abbiamo gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Facciamo il podio della classifica. Facciamo il podio della classifica? No, ascoltiamo l'ultimo brano estratto da questa nuova classifica che abbiamo preso spunto. Che poi sicuramente verrà estesa, mettiamola così, estesa per le prossime settimane. E il brano si chiama Ruta St. Ruta St. Ma qualche volta sì, rifaccio quello sotto. Il brano si chiama Principal Game Official Video, lasciamolo sperdere, però c'era solo questo, lasciamo dare. Without you. people say and know that I'm okay. It's the last call that I want to turn back to you. It's the first time when I wake up and feel. Principles that game which we play all the time. No talking, no try fix, nothing, cause we can do this best of all. Let's start. Questa ci stava bene come chiusura della puntata, di pezzo. Sì, ma come chiusura della giornata, proprio. Come chiusura della giornata, per addormentarsi. Cioè, praticamente, per oggi abbiamo fatto Wolf Trips, mezza tonica, extended version. Beh, vabbè, abbiamo anche diversificato su altre. Oppure per rilassarsi, anche Enya non è male. Enya. Gli Outcast, Enya. No, ma niente. Cazzo, bellissimo. Perdonalo. No, ma tra tutte e due c'è. Tra tutte, ecco, chi generalizzi per nulla. No, Tiziano Ferro. Che generalizzo, io sì, sono realista. Ferro di cavallo, poi che diciamo altro? Stiamo facendo il gioco. Le balle. Stiamo facendo il gioco, diciamo, di collegare una parola. Io dico una cosa, ma io chiuderlo prima sto programma stasera. Vabbè, andiamo. Allora, ascolta. Mettiamo tu. Hai qualcosa da dire? Sì, sì. Tu hai qualcosa da dire? Vai, io ne hai qualcosa da dichiarare? Tu e Deborah hai qualcosa da dichiarare? Tutto a posto. Tutto a posto, Ferragosto. Beata, tu, tutto a posto? Ma voi supposto. Non state bene di là. Cioè, secondo me deve esserci qualche sostanza stupefacente. No, ci stiamo preparando alla serata di domani, dove non so che cosa può succedere. Ah, non questa sera. No, è vero. È vero. Domani sera sarà una serata molto lunga. Speriamo, quindi, sì. Quindi io devo dormire al pomeriggio. Beh, anche io penso che una bella oretta, sì, ci sta. Però non poi domani sera inizia un bellissimo programma in TV, caspita, ce lo perdiamo. Ma iniziamo anche stasera. Cos'è un bel programma. No? C'è stasera? No, magari lo stesso. Stasera iniziava la corrida. No. Il mio era peggio, non te lo dico dopo fuori onda perché live show. No, non voglio, no, non voglio registrarlo. Lo prenderesti per il culo a vita. Domani sera inizia, che di sabato sera. Di sabato sera. Sì. Amici di sera. Oh, madonna. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano che è Plume di Sleepless. La Maria, Sleepless. C'è Maria. No. Ma io lo guardo anche ogni tanto al pomeriggio, so. Io comunque vi prego, c'è posta per te, io non la sopporto. Però lei è una vera professionista, devo dire. Sì. Una Maria De Filippi, sì, una grande, sì. Una grande. Cioè, i programmi magari no, alcuni, però devo dire che ci sa fare. Sì, questo sì, però veramente se no cragno tutto il tempo. Cioè. Lasciamo stare il discorso piangere. Anche tu? Lasciamo stare. Cragni anche tu? Dai, chiudiamo. Perché mi sta facendo gestare? Perché devi mettere la canzone. Dai che dobbiamo chiudere. Mettiamo il prossimo pezzo, sigla e poi lasciamo il programma successivo, lo spazio. Dai. Andiamo a ascoltare questa Flume. Stasera siete stati comunque cattivi. Nei no, dai, dai. Andiamo a ascoltare Flume con Sleepless. Justin Sloan-Link remix. Wall Street, I viaggi del lupo. Finita anche oggi. Eh sì, ci siamo arrivati. Stasera sì, è stata zoppicante la puntata. Sì, è vero. Non è stata pum scoppiata. Secondo me invece è stata ricca di contenuti. Cioè, io mi sento proprio al bar con una birretta in mano. Cioè, però manca la birretta. E il paninozzo. E manca anche quello. Se avete fame. Se avete fame. Boh, sì, un pochettino. Dai, un pochettino. Fai sì, tu. Dai. Salutiamo anche Max e Lopez, che non so chi siano. Portatori duo. Sani di sorriso. Sì, è un duo comico. Ho visto la pubblicità su Radio Lupo o sulla chat della radio. Ma è un duo comico come gli altri? Non come lo gli so. Altri? Credo di sì, però non so. E non voglio chiudiamo il discorso di su pseudo comici e via. No, comunque stasera dai, è stato carino. Sì, poi abbiamo fatto noi, anche la quattro chiacchiere da bar, insomma, abbiamo fatto anche la parte, diciamo, più colta da Super Quark. Sì, quindi. Io mi sono sputtanata davanti a tutti, però vabbè. No, vabbè, ma penso che sono pensieri che è normale che la gente abbia al mattino. Alla sera, quando ha un momento di tranquillità. Poi quindi dipende. Abbiamo scoperto che io sono tranquilla al mattino. Appena mia. Questo è da chiedere a Domenico, non lo so io. Mo. Parla io nel sonno. Tempo al mattino. Sì, che parla nel sonno. Ah, certo che parla nel sonno. Non è vero. No. Sì, che parli. Cioè, sonno. Se tu dovessi essere posseduta, non c'è spazio per uno spirito. Ma penso che si rifiuterebbe. Si rifiuterebbe anche lo spirito. Non mi vuole neanche lui. Comunque, io evito. Domani sera. Diciamo dove siamo, no? Ma sì. No. Tanto non siamo qua in questa zona. Cioè... Sì, ho capito. Ma dopo vengono là, magari vogliono pure offerto da bere. No, al massimo ce lo offrono a noi. Scusa. Sì, vedi come va il mondo. Va bene, dai. Allora, intanto volevo far vedere una cosa a Tony per farlo ridere un attimino. E io direi che chiudiamo qui. Vabbè, che abbiamo sforato il solito nostro minutino. Complimenti per il locale che ha scelto una grande cosa. E niente, noi ci sentiamo settimana prossima, Dio piacendo. Sì. E tempo volendo. Ma saremo da soli o ci sarà qualche ospite? Non lo so, ancora non è stato deciso nulla. Nulla è stato scritto nella pietra. Sto ragazzo con la primavera si è un po' sbandato. Che dici, Cri? No, io non lo so, cioè io non lo lavoro oggi. Cosa hai fumato? No, niente, proprio la stanchezza. Cioè, di cosa ti la sei fatto? Mi sono fatto di stanchezza. Ma lui è ancora il martedì che lo paga Dazio. Mamma mia. Settimana, sai che veramente... Questa settimana è il giorno più di rotture di cazzo. Martedì. Complimenti sempre per la per il francesismo. La finesse. Bonjour, finesse. Per il francesismo. Va bene, dai. 22:02. Ripeto, chiudiamo. Ci vedremo forse settimana ci prossima. Sentiremo. Ci sentiremo. E ci vedremo forse settimana prossima. Nei vostri tablet PC. Nei vostri tavoli. Non si sa mai. Sicuramente nei tavoli di qualcuno tra qualche minuto. Beh, ascolta, se dai. Mi offrono la cena. Vabbè. Non l'ha capito. Dai, ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao.